volta che sono stato assorbito. Ho finito 0-0 mai, hai perso e poi hai perso, io sempre uguale. Fondamente precauzioni, in fondo mentre pregozioni seleziono uimini, carino e fragile, ricordo di quindi che non è bello offendere. Capitano, tu a me, capitano, dove andiamo? Capitiamo con il ragno nella tela, con la barca senza vela che si imbarca e spera di essere l'arco, bianca neve senza mela. Senza veli, il vestito è bianco e tu sei nera. Tu stasera, lì stasera, everybody. Tutti bravi a fare i figli, infine secchi come i picchi. Limone tu spicchi, granita di specchi, diventi figli di composti acidi e sali minerali. Reazione sulle mani! Scelgo tracce per la mente, felice di vivere, contento di esistere, mistico, strategico. Rifletto sulle mosse successive, decisive. L'importante è non fermarsi, spingere. Giro al libero, simile ciò che piace alla follia, la mia musica. La mia metrica è il fuoco interno, non si spegne, non si paga, non si ferma. Si muove, commuove, cresce insieme a me, si nutre di emozioni, vibrazioni, pulsazioni, senti battiti più forti, sempre più forti. Un gioco di metafore da intuire, da capire a mo' di rebus. Ci vuole tattica strategica, la mia vita incastonata nella roccia come la spada, come la lama gelida, affilata, affinata la mia tecnica, nervoso dalla nascita, alcolico in crescita, sconosciuto e proseguire della vita, in vita, in vita. Pondo il sole con l'asfalto, per andare verso il meglio il trucco, assaporare il succo, il gusto è un tocco, il giorno è un bocco, non entrarci. Con il cuore in mano il lupo ha fiuto, mangia tutto e beve le tue lacrime. Nemmeno il cacciatore ti potrà salvare. Ah, sei morto, mi sei morto, ci sei morto, scegli quale. Il 31 al contrario, spezza Stefano, il mondo è ancora qui, e sta in pochissimi chilometri, si svolgerà in tre atti. Sorseggiando il vino, primo col primo, dentro un letto troppo vuoto, troppo freddo, e così triste essere soli stamattina. Con il cuore spento nel 2000, aspetto l'uno a digiuno da la mia festa, 6 giorni fa. Io però silenzio, sì grazie, lo apprezzo, mi spezzo e poi mi miscelo con te per comporre un nuovo pezzo, pazzo per. Siamo rimasti 12 più 3, forse che tengo solo quello che mi serve.